avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier. Quest'anno ancora non abbiamo toccato il tema della scuola. È un tema delicatissimo, soprattutto in questa particolare contingenza storica e politica e geografica. La scuola non può essere citata senza citare tutto un universo correlato di tensioni sociali, di fratture politiche, di problemi di tipo strutturale e organizzativo. Ma questa mattina vorrei, se possibile, parlare di scuola in senso lievemente più astratto e poetico, proprio sul concetto della scuola. Cosa dovrebbe essere la scuola? Cos'è la scuola? Perché la mattina vediamo persone immusonite che escono controvoglia da casa, sotterrate, sommerse sotto i loro zaini. Sembra che vadano in un luogo dove si sconti una pena. Sembrano quasi, non so, una sorta di arresti domiciliari all'inverso. Si esce da casa e si va verso la galera. Per quanto le scuole possano essere più o meno belle, areggiate, in aree verdi, anche scuole probabilmente non pubbliche, in cui i genitori pagano rette altissime, i ragazzi hanno sempre controvoglia. A scuola si va volentieri soltanto, magari si va a far casino, si incontrano gli amici, ci sono dei momenti di rottura rispetto alla routine familiare. Ma l'aspetto propriamente didattico alla scuola è una palla mostruosa per i ragazzi, lo è sempre stato. Io vedo che in realtà non c'è stato uno stacco generazionale nella percezione della scuola nelle ultime 3-4 generazioni. Sì, si va a scuola perché a scuola c'è tutto un insieme, un sottosistema fatto di rapporti con gli amici, di innamoramenti, di organizzazioni parallele all'organizzazione scolastica, clan, gruppi. In altri tempi, o forse anche in questi tempi, c'era la politica, che era una delle ragioni fondamentali per cui la gente andava a scuola, nelle scuole superiori, nei licei. Per scuola si faceva politica, a casa ci si scocciava, a casa era il luogo dell'antagonismo. Oggi non saprei bene esattamente quale sia il sostituto della politica. Comunque i ragazzi non vanno volentieri a scuola. A scuola volentieri è il momento dell'entrata, è il momento dell'uscita, gli unici momenti legati a una piacevolezza, il momento della ricreazione e il momento della complicità quotidiana o ad anni di altri colleghi di scuola, con episodi deleteri di vessazione del più debole, che è sempre stata una delle chiavi fondamentali di tenuta dell'organizzazione scolastica, o ai danni dei professori, o nell'eludere e nello sfuggire dal sistema di sorveglianza e di certificazione dell'attenzione alle lezioni, quindi eludere l'interrogazione, eludere la prova scritta, eludere il compito in classe, cercare comunque di sfangarla giorno dopo giorno, e così passa il tempo. Ma può essere la scuola qualcosa di diverso? Molti l'hanno teorizzato, molti hanno pensato soluzioni, molti ci hanno lavorato sopra, ci sono stati esempi pilota di cui si sente molto parlare nella fase iniziale di lancio, poi lentamente anche ogni esempio pilota affonda nell'indifferenza. Beh, questa mattina parliamo di una proposta per trasformare la scuola in qualcosa di meno noioso per i ragazzi. Meno noioso significa più utile, significa più razionale per la società, significa che i soldi spesi alla scuola sono spesi meglio, non sono spesi per dare una purga quotidiana dei ragazzi, comunque ottimizzeranno una parte minima di tutti gli sforzi fatti per dare a loro un'istruzione. Sincerità, adesso è tutto così semplice. Hai mai provato a contare quante volte ricorre l'espressione essere vero? Essere una persona vera nel corso di una qualsiasi puntata di un qualsiasi reality show? E sei mai riuscito a capire cosa significhi esattamente? Tutti coloro che hanno rivendicato il proprio essere veri in 11 edizioni del Grande Fratello non erano mai personaggi di cosiddetto basso profilo. Spesso, anzi, sono stati accusati di essere freddi strateghi calcolatori o apatici manichini compiacenti, sdoganati agli occhi del pubblico in virtù della loro presunta autenticità. Fai mente locale. In quale competizione vince chi gioca a carte scoperte? Conosci forse qualche allenatore di calcio che sveli volentieri schemi e formazione alla vigilia di una partita? O uno scacchista che dichiari anzitempo all'avversario le sue mosse? Non di meno, quando dal gioco si passa alla realtà, la finzione rimane una componente indispensabile dell'astuzia di chi ambisce alla vittoria. Se il prof ti dice «Devo metterti 4, mi spiace, hai fatto scena muta», ha senso rispondergli «Prof, non ho fatto scena muta, sono semplicemente rimasto me stesso, anche se non avevo aperto libro, e lei forse non apprezza il fatto che sono una persona vera?» Di questa storia magica 800240024. Questa mattina parliamo di scuola, ne parliamo perché proprio ieri è uscito un nuovo libro che racchiude in sé uno dei tentativi di cercare di dare una confezione diversa alla scuola, al sistema scuola in sé, per trasformare la scuola da un luogo di espiazione a un luogo in cui si vada volentieri, come volentieri si esce il pomeriggio, si sta con gli amici, si va nei luoghi di aggregazione. Il libro è School Rocks, la scuola spacca, di Antonio Incurvaglia e Stefano Morigi, uscito per le edizioni San Paolo, quindi è una formula in sé interessante nella sua poliedricità. Stefano Morigi è un filosofo della scienza, un mio amico, l'abbiamo sentito più volte, Antonio Incurvaglia a questi microfoni, è autore di Generazione 1000 Euro, si occupa di comunicazione digitale, social network, e collabora da anni con periodici e progetti rivolti a al pubblico giovanile, per cui l'agenda Smemoranda, ricordate, oppure cioè una delle rivistine specializzate, rivistine in quanto dedicate a un pubblico giovanile, specializzate proprio al pubblico giovanile. Si sono messi insieme e hanno pensato di fare un libro in cui si possa dare un'idea, una proposta diversa rispetto alla scuola. Stefano Morigi, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Comincio da Stefano, con cui ho più familiarità. Stefano, in quale impresa ti sei ficcato questa volta? Ah, l'impresa è una di quelle apparentemente impossibili, come giustamente dicevi tu, nei ragazzi delle scuole superiori, ma lo vedo anche l'università, no? C'è spesso la percezione diffusa della totale inutilità di quello che apprendono. Ci si va perché è il nostro dovere, bisogna andarci. Esatto, è un dovere, tutto, si imparano cose inutili, la lontananza di nozioni e concetti dalla loro vita quotidiana, professionale e personale. Allora, come tu sai bene, noi stiamo vivendo un periodo piuttosto interessante che sta conoscendo una grandissima evoluzione scandita dall'evoluzione della tecnologia. I ragazzi interagiscono invece molto volentieri con la tecnologia e la tecnologia sta introducendo nuovi modi di apprendimento, nuovi modi di concentrazione, nuovi modi di ricostruire e comprendere, analizzare il mondo che sta fuori di noi. Uno di questi modi che la tecnologia suggerisce per pensare il mondo, analizzarlo e comprenderlo è quello di procedere per problemi, per comprensione dei problemi e soluzione dei problemi. Ora, questa strategia è una vecchia idea che ha informato la scuola fin, non tanto in Italia, ma in altri paesi, fin dalla fine dell'Ottocento. È la logica che i ragazzi utilizzano durante le loro ore della giornata, meno quando sono a scuola, che sono costretti a ragionare in una logica libresca, e quindi si crea un pericoloso cortocircuito che vede la scuola l'unico punto che è della loro giornata in cui si trovano a ragionare con strumenti e con metodologie che non sono più quelli che invece... Ti posso fare un esempio, Stefano? Prego. Di un ragazzo che tu conosci perché è mio figlio. Adesso sì. Brutto portare, però ora mi spiego come mai mio figlio con alcuni suoi amici e colleghi passa ore del suo tempo a tradurre dei manga in giapponese, vanno a scuola, sono appassionati del Giappone come tanti loro ragazzi, quindi studiano il giapponese e come una sorta di gioco, di sfida, cercano di tradurre i manga, i fumetti, passano il tempo su YouTube, cominciano, però vedo che pian piano, facendolo da vari mesi, cominciano a prendere confidenza con il giapponese, che sembra la cosa più lontana dalla nostra cultura. In geografia prende dei voti bassissimi, non riesce a sempre con grande difficoltà e con grande fatica a superare l'anno nella disciplina geografia, sembra la più stupida delle discipline, basta leggere, studiare e capire. Beh, sai, se tu avessi imposto a tuo figlio a Filippo di studiare il giapponese, l'avrebbe percepita come una cosa astratta. Lui ha scoperto una passione e ha capito che per capire meglio, entrare meglio in quel grandioso immaginario dei manga, aveva bisogno di uno strumento raffinatissimo e complicatissimo, che è quello della lingua giapponese. Allora si è appropriato progressivamente di quello strumento per entrare in un problema concreto, cioè la comprensione della mitologia dei manga. Quindi, perché non va bene in geografia? Perché probabilmente la geografia la percepisce come una cosa lontana. Se la vivesse nella dimensione del viaggio, della scoperta, dell'imprevisto e al di là del libro, o della scoperta di nuovi paesaggi, di nuovi immaginari, probabilmente la vedrebbe come una continua logica della scoperta del paesaggio o piuttosto che della geografia politica, e i voti cambierebbero. Ma io vorrei girare adesso. Lo dicono i fatti, insomma. Visto che abbiamo iniziato da un esempio concreto e biografico, mi piace seguire questa strada. Antonio Incorvaia, andiamo avanti sempre su questa storia. Il ragazzo non studia la geografia, non gli piace. Perché? Ho provato a interrogarlo e mi dice: ma guarda, se ho una curiosità rispetto a un paese, guardo Google, prendo le mappe di Google, me lo cerco, in un minuto lo trovo, perché devo imparare a memoria delle cose che ho sempre a disposizione. Cosa risponderesti te? Fa parte, diciamo, del metodo del vostro libro anche rispondere a questo tipo di domanda, che trovi folle un ragazzo per imparare a memoria l'economia di un paese o le capitali o le città o i fiumi o gli affluenti o quante altre cose, quando già in testa sua che una domanda risponde immediatamente digitando semplicemente in un motore di ricerca? Certo, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Sì, esattamente, risponderei che è corretto che ci sia questa frattura e questa differenza di approccio e di interesse, proprio perché, come diceva Stefano, la tecnologia, oggi gli strumenti a portata dei ragazzi, consentono loro di trovare le risposte che cercano in tempi molto più brevi rispetto a quelle che troverebbero in un noioso libro didattico, e soprattutto di effettuare in maniera istantanea il collegamento tra l'utilità di quello che cercano e la loro vita quotidiana, per cui molto probabilmente si può approcciare la geografia andandola a cercare fisicamente su Google. Perché? Perché ho intenzione di fare un viaggio e allora ho tutto l'interesse a conoscere tutto del posto dove voglio andare. Ci sono ragazzi di 13, 14, 15 anni che pianificano le vacanze in maniera estremamente rigorosa e precisa, molto più di quanto non studino poi a memoria il chilometraggio o la metratura di una nazione o di un continente, un numero di abitanti, proprio perché il link che gli manca a scuola e che ritrovano autonomamente a casa quando approcciano invece linguaggi tecnologici che gli sono più vicini, è proprio quello tra la nozione, cioè il contenuto, la notizia, e l'utilità nella loro vita di tutti i giorni. Antonio, visto che ci stiamo dicendo ormai da molto tempo più o meno le stesse cose, dov'è il problema? Perché basterebbe che la scuola diventasse una sorta di propaggine della Camera delle Meraviglie, che è la cameretta di ogni ragazzo, cioè ha tutte le connessioni possibili, gli strumenti, le maniere per apprendere giocando senza accorgersi nemmeno che in quel momento sta imparando a conoscere il mondo, e il problema sarebbe risolto. Invece, improvvisamente, è come se ci si dovesse mettere la divisa da galeotto. Quando si esce di casa, si esce con uno zaino che pesa 25-30 kg sulle spalle, con dei dizionari che sono gli stessi dizionari che usavo io. Mio figlio esce di casa con i Rocci sotto braccio che aveva mio padre e probabilmente anche mio nonno. C'è qualcosa che non va in tutto questo. Trova degli insegnanti che la prima cosa che gli fanno, cercano di demolirgli tutto l'universo di strumenti meravigliosi con i quali passano il resto della giornata, come se fossero, che ne so, delle peccaminose appendici e lussuriose maniere per depravarsi. Ma infatti il nostro libro, che per linguaggi e contenuti fornisce uno stimolo e un metodo didattico ai ragazzi, in realtà si rivolge anche agli insegnanti, perché il cambiamento che viene richiesto non è solamente nell'approccio da parte degli studenti, ma anche nell'atteggiamento che gli insegnanti hanno nel proporre i contenuti di loro pertinenza. In realtà spesso si tratta semplicemente di intuizioni informazioni che magari mancano perché non si è così effettivamente interessati o vicini al mondo dei propri studenti, e perché i programmi ministeriali, lo sappiamo bene, tendono a uniformare e a proporre e riproporre ciclicamente nozioni che in realtà, come dicevi giustamente tu, sono un po' sempre le stesse e non richiedono neanche aggiornamento. Infatti il vostro libro, per come è costruito e tutto, sembra quasi una sorta di testo eretico. Vorrò fare il tentativo, o perlomeno l'esperimento, di metterlo a mano a un insegnante, vedere cosa dice. Sembra quasi un testo eretico. Molti hanno tentato di trasformare la scuola palpeggiando e usando con destrezza lo strumento dell'eresia. Però alla fine sono sempre stati tentativi che non sono mai entrati a pieno diritto nel programma della scuola. La scuola non ha mai preso in considerazione delle metodologie diverse. Alla fine la scuola è la stessa dalla riforma Gentile in poi, non è che è cambiato molto nella sua essenza. C'è un insegnante dietro una cattedra che a modo suo anticipa ciò che sta scritto su dei libri, raccontandolo e beandosi della sua capacità di esporre, la maggior parte delle volte in maniera noiosissima, con delle prove di attenzione ai ragazzi costanti. Poi può essere sotto forma di quiz, può essere sotto forma di interrogazione, ma c'è ancora l'insegnante con il registro che guarda le facce spaventate, tutti si appiattiscono sotto i banchi, lo so perché ho chiesto, mi sono documentato come fare questa ammissione, dice oggi sentiamo e quel brivido della classe, dovrebbero essere tutti felici, contenti di raccontare quella che è l'esperienza della loro vita. Sentiamo qualche ascoltatore però. Anna, buongiorno. Buongiorno Anna. Buongiorno eccomi. Signor Nicoletti. Sì. Volevo solo dirle che hanno già detto tutto quelli che mi hanno preceduto. Beh, dica anche lei la sua. Perché certo, sennò... certo, io ho 62 anni, ho fatto solo terza media. E speravo tanto perché ogni tanto si sente alla scuola, vogliono fare dei cambiamenti, farla più interessante, invece è sempre tutto uguale. Ma lei la sua esperienza cosa ha? Figli, nipoti? Vede... Sì, io ho dei figli. Quindi lei vede sin dai tempi della sua scuola media, non è cambiato, conferma quello che stiamo dicendo noi, certo, la scuola certo. Con tutte le riforme, e non voglio entrare nelle riforme tipo organizzativo, strutturale, nei programmi, l'idea di scuola non è mai cambiata, è sempre la stessa, no. C'è una scuola a cui si va e dice oh che bello, oggi vado a scuola, sono felice. Ma pensi un po', adesso ci sono questi, non so, c'è Ulisse che le trasmissioni sui romani, l'Odissea, cioè tutte cose che cominciassero a farli vedere ai ragazzi. Ma ragazzi, guardi, i ragazzi sono molto più attenti quando ci sono esempi alti di trasposizione del sapere, della storia, della geografia, della filosofia attraverso la fiction, attraverso mille altre maniere di raccontare. I fumetti stessi sono meravigliosi strumenti di sapere. I ragazzi lo sanno, ma li vedono sempre come strumenti che appartengono al momento ludico, al momento della libertà, della trasgressione, del divertimento. Mai in scuola non può mai entrare roba del genere, è come se fosse un metal detector che consideri tutti questi strumenti alternativi del sapere armi pericolosissime che non possono essere portate a bordo. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. School Rocks, la scuola spacca. Tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, la scuola spacca. E capisci anche l'H. School Rocks, la scuola spacca. Tira sulle pagine, la musica attacca. School Rocks, School Rocks, School Rocks, Rocks, Rocks. È ora di imparare ad imparare. Non c'è un maestro solo che lo possa insegnare. Perché un solo maestro da un punto di vista. E per vedere il resto te ne serve una lista. Ci serve un matematico per non dare i numeri. Aggiungici un filosofo per pensieri effimeri. Sommaci uno storico che dica com'è andata. E un fisico quantistico che dia un'accelerata. Data una rata prepagata. Quanto costa una telefonata alla fidanzata? Ma avevo detto che erano un po' fuori di testa i due autori di questo libro, a cui le Edizioni Paolini hanno affidato una grande responsabilità. Quella di scrivere un libro in cui si cercasse, ma con strumenti strutturati, serie, non semplici cialtronate alternative new age, si cercasse con strumenti seri, quindi un filosofo della scienza, quindi un esperto in multimedialità come Stefano, come Stefano Morigi e Antonio Incurvaia, di fare un libro in cui si provasse con un linguaggio diverso, attraverso gli strumenti che meglio conoscono i giovani, di far passare la scuola come qualcosa di non punitivo, di non fastidioso, di non pesante. E quindi è uscito School Rocks, questo libro che proprio ieri, da ieri nei libri. La prefazione di questo libro è stata scritta da Frankie Hi-Energy, un famosissimo e notissimo rapper italiano, e infatti per far capire che secondo l'elasticità mentale delle generazioni che si siedono sui banchi di scuola, un libro ha un'infinità di link, di derivazioni. Un libro non è soltanto qualcosa che si legge, qualcosa che ha una sua corrispondenza in rete. In rete già c'è il rap della prefazione di Frankie Energy e si può ascoltare. E Frankie Energy è al telefono. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Come stai, caro? Tutto bene, tu? Ecco, ti sei anche te messo in questa strada che andrete a sbattere contro un muro, perché vi lanceranno tutti gli strali possibili, diranno che è un gioco, che è uno scherzo, che non si fa così, che la scuola è una cosa seria. Poi voi ci avete provato e quindi l'onore agli eroi questa mattina lo diamo. Hai scritto un rap proprio che sintetizza, cercando di trasformarlo anche in questo linguaggio, l'idea di scuola. Di scuola come qualcosa che non sia, non sia un luogo di soffocamento di ogni velleità, di ogni ispirazione, di ogni poesia. O perlomeno io l'ho vista così. Sì, il tentativo è quello, e peraltro gli strali hanno già iniziato a lanciarli, adesso hanno iniziato a lanciarli contro di me, contro il mio testo, contro una strofa nella fattispecie del mio testo. E qual era la strofa incriminata? Finalmente lo studio ti svaga, partendo da Platone, arrivando a Lady Gaga. Ah, vabbè. E l'accostamento di Platone con Di solito sono le rime Niga che danno fastidio, perché Naga non credo che dia fastidio a nessuno. E invece stranamente forse sono riuscito a farla suonare, essendo la nostra Gaga non troppo Iga, evidentemente hanno detto se la sono fatti bastare. Ma proprio l'accostamento tra Platone e questa artista pop che tra l'altro non mi piace neanche troppo, mi piace con i costumi che usa. Sì, poi ragazzi, noi siamo un'altra generazione, Frankie, tu un po' meno di me, io ormai sono già putrefatto. Ai ragazzi piace, evidentemente ci vedono qualcosa, parla un linguaggio che li colpisce. Se capisco anche perché gli piaccia. Quello che non comprendo è come accostare anche semplicemente come due entità, se vogliamo pop, cioè estraendo la natura pop da Platone piuttosto che dovendo ricercare una matrice filosofica in Lady Gaga, questa cosa abbia fatto saltare la testa a un sacco di docenti che si sono sentiti proprio profondamente indignati. Su alcuni blog ci sono proprio delle filippiche incredibili nei miei confronti, in cui mi dichiarano di mi incolpano, mi danno comunque la responsabilità di essere quello che gli vuole insegnare il mestiere. Beh, però questo libro non è che l'hai fatto soltanto tu, che sei un autore, un poeta, uno scrittore di poesie. Allora, ma ancora non è uscito il libro, pensa a te come stanno. Dunque, stanno aguzzando tre pali sulle pubbliche piazze in cui saranno fatti adagiare Stefano Morigi, Antonio Incurvaia e Frankie Energy. Stefano Morigi, vediamo, siccome tu penso che è uno dei maggiori responsabili dell'accostamento tra Platone e Lady Gaga, o perlomeno di averlo avallato, tu che sei un docente universitario, dacci un esempio di come può essere sintetizzato il metodo che voi proponete in questo libro. Platone e Lady Gaga, quali sono i punti che potrebbero associarli per far capire ai ragazzi che Platone non è quella noia da dover studiare per forza per l'ora di filosofia, ma è qualcosa di molto divertente? Ma Gianluca, il problema è questo sostanzialmente: la cultura è irriverenza, non è una serie di mummie. E Platone può servirti per capire Lady Gaga, perché piaccia o no a certi docenti ormai più ammuffiti delle mummie, è un fenomeno sociale e dunque culturale, quindi meglio capirlo, e per capirlo ti può servire Platone, una certa diffusione dell'immagine, una certa seduzione dell'estetica, una certa riflessione sul linguaggio, ti può servire tanto Platone per comprendere Lady Gaga, per esempio su quello che scrive nel Fedro, vadano gli insegnanti a rileggerselo, oppure ti può servire una certa analisi del fenomeno sociale Lady Gaga per comprendere problemi che hanno più storia che soluzioni e che riconducono alla filosofia di Platone piuttosto che quella di Aristotele o ad altri capitoli del sapere che di solito rischiano di rimanere ingessati in lezioni incomprensibili e incomprensibili nella loro inutilità. Quindi Stefano, tu saresti disponibile e disposto a fare questa sfida, questo esperimento, andare in un qualsiasi liceo italiano, ammesso, lo dico questa mattina, ci fosse un preside o un professore disposto a fare l'esperimento, e fare una lezione su Platone partendo da Lady Gaga? Sì, certo, ma no, ti dico di più, io e Antonio, e anche con l'aiuto formidabile di Franchi, abbiamo sviluppato una sorta di format sperimentale a livello universitario, lo stiamo sperimentando anche in università, dove noi proponiamo sostanzialmente di andare in una scuola, poniamo un problema preso dal giornale del giorno, dai bisogni dei ragazzi eccetera, e gli diciamo adesso tirate fuori i libri che avete nel vostro zaino, non so quali libri avranno nel loro zaino, e li usiamo come degli strumenti per capirci di più su questo problema, per riorientarlo e magari per trovarne una soluzione possibile. La scuola e il sapere originariamente, addirittura a livello evolutivo, è uno strumento che consente di risolvere problemi. Quando cessa di essere questo, è cultura che a noi non frega niente. Di Platone morto non ce ne facciamo niente. Vogliamo Platone vivo. E se Platone è vivo, serve anche per spiegarci Lady Gaga. Io lancio, ti do spazio questa mattina di lanciare questa sfida. Mi piacerebbe che oggi, prima della fine della trasmissione, qualcuno dicesse, prendo questi tre scriteriati nel mio liceo, vengono un'ora e facciamo l'esperimento. Se riescono a togliere dalla catalessi i ragazzi, catalessi quotidiana in cui cascano ogni volta che si siedono sul banco, evidentemente qualche fondamento di ragione ce l'avevano. Stefano da Milano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, è vero, è importante che le nozioni che trasferiamo ai nostri ragazzi siano nozioni che servono. È un insegnante lei, Stefano? No, no, no, io non sono un insegnante, sono un osservatore. Ho fatto l'insegnante, sì, ho fatto l'insegnante per qualche tempo, poi la mia carriera è andata in altre direzioni, ma ho due figli, una di 5 e uno di 12 anni, però l'ho vissuto più sulla mia pelle che sulla pelle dei miei figli questo concetto, che è vero che appunto ci sono nozioni importanti e nozioni meno importanti, però a volte è quasi più importante il percorso con cui si arriva ad apprendere le nozioni. Mi spiego meglio. I nostri ragazzi, secondo me, a scuola si confrontano innanzitutto con loro stessi, con la difficoltà di dover affrontare delle prove, delle interrogazioni, dei compiti in classe e di dover essere preparati, e questo non è altro che qualche cosa che poi li preparerà alla vita, all'avere un lavoro, a dover rispettare delle scadenze eccetera eccetera. Guardi, non vorrei essere frainteso, io sono per una scuola altamente selettiva, non sono per la scuola aperta a tutti, in cui tutti possono. La scuola è essere selettiva, nella scuola comunque sia un indice di merito ci deve essere, poi è il metodo, è la maniera di valutare il desiderio del ragazzo di crescere in quel periodo, che è un periodo di crescita. Ti diamo degli strumenti per crescere, per diventare uomo, per diventare donna, per diventare essere umano pensante, tutto te li diamo perché abbiamo più esperienza di te, conosciamo il mondo e via dicendo. Ma se questi strumenti diventano delle palle di cemento da legarsi alle caviglie, è chiaro che il ragazzo dice sì, lo faccio che devo farlo perché mi è obbligato a farlo, ma non ti riconosco il diritto di avvelenarmi l'esistenza. Ci fermiamo soltanto un minuto per le informazioni del traffico, poi riprendiamo. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Visto che mi vuoi lasciare, vai sicuro non ti voltare. Come già l'economista Adam Smith sapeva, noi non siamo animali sistematicamente razionali, nemmeno quando si tratta di affari, figurarsi negli affari di cuore. Tuttavia, le neuroscienze hanno dimostrato che le nostre decisioni sono fortemente condizionate da una sorta di utilità emotiva. Tendiamo a prediligere condotte capaci di corrispondere a un piacere atteso. Nel nostro cervello c'è addirittura una sorta di moneta, la dopamina, che quantifica effettivi e attesi incassi emotivi. quando due persone decidono di frequentarsi, lo fanno indotte dalle aspettative che ciascuna proietta sull'altra. Ora, ammesso e non concesso che vi sia una qualche analogia tra le reciproche attese, non è detto che la realtà dei fatti le soddisfi o le deluda allo stesso modo. Detto ciò, potrai intuire l'alta improbabilità di un incontro amoroso che non smonti le aspettative di entrambi, e perché suonano quasi plausibili insensatezze come ti lascio. Già prevedo il passo successivo: saranno accusati di spaccio di dopamina, perché capire che è un neurotrasmettitore probabilmente è una fatica ardua. Sto parlando di Antonio Incurvaia, Stefano Morigi e il loro complice Frank High Energy, che hanno contribuito a creare School Rocks, la scuola spacca, il gioco edizioni Paoline, edizioni San Paolo. La scuola spacca è il gioco di parole che in realtà invece che rompere spacca. La scuola che rompe è la scuola che infastidisce, appalla, annoia, è la scuola che abbiamo sempre tutti conosciuto e continuano a conoscere i nostri ragazzi. La scuola che rompe, la scuola che spacca in realtà è una scuola che dovrebbe entrare in sintonia con tutti gli stimoli che hanno di apprendimento i ragazzi, che considerano comunque delle attività illecite dal punto di vista del loro accrescimento culturale. Vuoi la musica, vuoi i videogiochi, vuoi i film, i romanzi, i fumetti, le storie, gli amori, le discussioni borderline, tutte cose che appartengono al mondo dei giovani che difficilmente è lambibile da persone che sono già stati giovani, però il metodo funziona, secondo me il metodo funziona. Sentiamo Marco. Marco? Sì, pronto? Eccomi, 21 anni, un giovane. Sì, un giovane, quindi anch'io studente liceale finito da due anni. Quindi... Le cronache parlano ieri di un giovane di 41 anni di cui i genitori hanno dovuto chiamare la polizia per farselo levare di casa perché non voleva levarsi da casa dei genitori. Quindi hai ancora 20 anni davanti per continuare a essere giovane. Assolutamente. Ma il mio intervento, certo, non vuole essere il solito motivetto, ma è vero che a volte forse i ragazzi non riescono a essere partecipi in una materia, cioè ad appassionarsi anche per gli insegnanti alcune volte. Sì, gli insegnanti, allora, che i ragazzi siano un po' stronzi normalmente fa parte anche dei loro problemi del loro splendore generazionale esserlo, ma che gli insegnanti non trovino mai degli spunti glamour per appassionarli, è impossibile. Già che arrivano e prima di fare l'appello non gli va di far lezione, cioè questo ad un ragazzo probabilmente già questo diceva, ma se non interessa a lui perché dovrebbe poi interessare a me? È molto giusto. Sentiamo Maria Chiara. Maria Chiara. Sì, senta, io dicevo, mi stupisco da ex insegnante che un uomo intelligente, moderatamente cinico come lei... esageratamente cinico, moderatamente intelligente. Ecco, si preoccupi tanto di una di far venire fuori una scuola che sia divertente, che sia interessante, sì. E deve essere punitiva la scuola, sì. Per forza. Io ho detto di essere super selettiva. Cioè, ragazzi vanno presi a calci nel sedere se non danno risultati, vanno rimandati, bocciati. Non voglio dire di essere a scuola aperta a tutti, però dovrebbero andarci divertendosi, se fosse possibile, cioè volentieri. Ma no. Io non ci sono andata divertendo. Ma infatti è ancora triste, lo sento. No, io non sono triste. Io mi ricordo gli anni del ginnasio e del liceo come molto divertenti. Voglio dire, c'erano maschi da prendere in giro perché non avevamo bimbe più grandi, c'erano cose che ci interessavano e altre meno, ma non ci facevamo poi tanti problemi per cose che non erano importanti. Alcune materie ci piacevano, altre meno, basta. Io mi ricordo alcuni insegnanti molto volentieri, altri meno, e basta, la vita e va anche presa così, Sì, lei ha confermato quello che stavo dicendo io. La scuola non si è mai evoluta, è sempre rimasta uguale, sempre questa idea, si va a scuola perché la compensazione, che ci sono degli attimi ricreativi, si conoscono fanciulle e fanciulle, ci si innamora, si fanno piccole organizzazioni parallele, si fanno partiti politici, ci si organizza per la serata, si fanno tante cose divertenti, si fa il casino, si dà fuoco alla carta igienica nei gabinetti, si accendono i razzetti sotto il sedere del bidello, si possono fare tante cose, ma questo è la parte accessoria, che dovrebbe far digerire però la parte pesante, noiosa, che bisogna studiare. Se anche lo studiare diventasse qualcosa di entusiasmante, come per i ragazzi entusiasmante. Studiano tantissimo i nostri ragazzi, studiano le lingue straniere per capire il testo delle canzoni, e traducono i telefilm americani in anteprima, stando alzati la notte li mettono su YouTube, quindi si impegnano tantissimo. Antonio Incorvaia, uno degli autori di questo libro, cosa risponde a questa insegnante che ti richiama al rigore? Che è corretto quello che hai detto tu, e che non è più un discorso di gusto, cioè una materia mi piace, una materia mi piace meno, è un discorso di utilità, cioè perché io sto andando a scuola a imparare a memoria le date di una battaglia o la metratura di un continente, se poi non trovo nessun riflesso pratico nella mia vita di tutti i giorni. Cioè nella migliore delle ipotesi lo faccio per far contenti i miei genitori. O almeno sono contento di me, o gli insegnanti. Esattamente, ti faccio un esempio molto pratico. Quanti insegnanti sconsiglierebbero ai loro alunni di guardare trasmissioni come Amici o di passare il tempo attaccati ai poster delle loro boy band preferite, proprio attraverso l'analisi delle boy band e dei personaggi che transitano per Amici si può spiegare l'idea di corso e ricorso storico, si può spiegare la rivoluzione industriale e la produzione serie, e si può spiegare la pop art. Quindi partendo da Amici si intercettano tre categorie didattiche estremamente ricche, variegate e anche complesse, in maniera però, come dicevi tu, glamorous e con un minimo di appeal e di riscontro pratico. Liliana, buongiorno. Buongiorno Gianluca, io chiamo da Belluno e volevo portare la mia esperienza. Io questo insegnamento innovativo l'ho avuto circa 30 anni fa, fortunatamente, perché penso sia una persona più unica che rara. Io e i miei compagni di classe, ovviamente, eravamo una classe di tutte donne in un istituto tecnico, e ci è arrivato un professore di italiano che ci ha fatto volare, lo dico chiaramente. Ha puntato tanto sulle emozioni, sulle nostre emozioni di adolescenti, ha puntato tanto sulla musica, su ciò che ci interessava in quel momento. E l'ho abbinato agli autori, che potevano essere il Fosco. Ma era un esperimento personale, individuale, una persona illuminata che vi ha lasciato un buon ricordo, non era inserito in nessun progetto particolare. Era un suo metodo di insegnamento. Ma ha un nome questo metodo, questa persona, o è così, si è dissolta poi nella dimenticanza? No, esiste ancora, sono ancora in contatto con questa persona, si chiama Vito. Ci levamo del tu, ma assolutamente non un lei, e le assicuro che prendeva sempre le ore in prestito dagli altri professori, facevamo anche 4-5 ore di italiano e andavamo anche il pomeriggio. Vabbè, mi sembra aver capito che comunque individualmente, non in maniera strutturata, esistono via via, ci esisteranno senz'altro degli esempi illuminati. Ricordo il libro di cui abbiamo parlato stamattina, ancora attendiamo che qualcuno inviti i tre autori, Antonio Incorvaia, Stefano Morigi e Frankie Energy, che ha fatto la prefazione musicale. La prefazione di School Rocks, La scuola spacca, edizioni San Paolo. A domani. Alors tous deux, on est parti dans tourbillon la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.